Avventurieri, ce l'avete fatta! Siete stati messaggeri della speranza, custodi del sapere e campioni del coraggio. Da oggi, il vostro nome sarà inciso nel Chronicon Errantium, affinché nessuno dimentichi ciò che avete compiuto.